voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Tredicesima puntata. Matrimonio. La sera del primo maggio a Mosca, dopo le parate, i missili, i ginnasti e gli uomini irsuti barcollanti di vodka nelle strade percorse da un'aria come di cemento, un giovane commerciante di bestiame italiano vide nell'enorme sala stracolma dell'hotel Sovietskaya una donna che gli piaceva. La donna stava a un tavolo con dei georgiani. Era bruna, piccola, con occhi accesi e rotonda. I suoi compagni di tavolo erano uomini grassi e baffuti, con grandi nasi e il berretto in testa. Due o tre ufficiali, anche quelli baffuti e somiglianti a Stalin, e altre donne grasse con vestiti a fiorami che mangiavano e bevevano. Sembrava un tavolo di turchi, e anche la donna, a dire il vero, sembrava un po' turca per la pelle chiara e la carne come di gomma. Ma c'era nel suo ridere a brevi gorgheggi qualcosa di più leggero e incosciente. Era anche molto truccata, e da certi sguardi obliqui che rispondevano al suo, il giovane commerciante che si chiamava Francesco, si fece l'idea che era una donna avvicinabile. Francesco conosceva Mosca e la Russia, ci veniva due o tre volte l'anno per l'acquisto di grandi quantità di bestiame, e tra le poche donne russe che aveva conosciuto non ne aveva mai viste di così. Sapeva però che ce n'erano e che si davano da fare nei giorni di festa. Francesco era ricco e disponeva di molto denaro e di molto tempo. Durante quel tempo, una settimana, cinque settimane, cinque mesi che la burocrazia sovietica riusciva a far diventare sempre più lungo, si annoiava e finiva per passare le giornate in albergo a leggere libri di storia, la sola passione che gli era rimasta dal liceo, e a correre su e giù dalla telescrivente attraverso cui comunicava ai familiari i prezzi del bestiame e le continue variazioni. Conosceva pochissime parole di russo, ma non lo capiva. Conosceva un po' il francese e l'inglese, che aveva imparato con difficoltà, e non aveva amici. Girava per la città con la sua grossa Mercedes, o solo o insieme a un interprete, che però non era mai veramente fisso. In questo modo conosceva a memoria le strade e le chiese di Mosca e tutti i musei, tutti i mercati, tutti i bar per stranieri e molti luoghi delle battaglie napoleoniche che aveva ricostruito. Era un uomo di campagna e nonostante gli studi classici era rimasto tale. Gli affari di famiglia lo interessavano più di qualunque laurea ed erano, come si è detto, grossissimi affari. All'estero sentiva però la mancanza della famiglia, pure non essendo sposato, del paese, del bar e dei mercati, più di ogni altra cosa delle stagioni italiane, e nei tempi di semine o di raccolti passava le giornate alla telescrivente per sapere da casa se aveva piovuto o no, o nel caso di temporali se aveva grandinato. Non era molto alto, aveva capelli folti, duri e ricciuti e una grande forza fisica che non sapeva come impiegare a Mosca. Di tanto in tanto pensava di sposarsi. Verso la fine del pranzo, lui stava con l'interprete, arrivò l'orchestra tra grandi applausi e alcune coppie cominciarono a ballare in quel modo agricolo e antiquato che hanno i russi. Quando attaccò un valzer, Francesco si levò dal tavolo, si inchinò alla donna rotonda e si avviò con lei accanto all'orchestra. Stranamente sapeva ballare molto bene. La sua carne era veramente di gomma, ma ahimè non sapeva parlare nessuna lingua all'infuori del russo. Capì solo il suo nome, Alla. Si servì così dell'interprete, un giovane dai capelli color stoppa che mangiava moltissimo, per far chiedere alla donna il suo numero di telefono, che ottenne dopo lunghi parlamentari dell'interprete. I georgiani parevano seccati. La serata finì presto con discussioni e la donna sparì. Il giorno dopo Francesco telefonò alla donna, che però parlò a lungo in russo ed egli non capì nulla. Si lasciarono, ma subito dopo fu un'altra donna a telefonare, una che parlava inglese, che si disse amica di Alla, che si offriva come interprete telefonica. Francesco disse chi era. cosa faceva e cercò di stabilire un appuntamento con Alla. La donna rispose che avrebbe riferito e richiamato. Squillò una seconda volta il telefono. Alla voleva sapere, tramite l'amica interprete, quali erano le intenzioni di Francesco, perché avrebbe potuto accettare l'appuntamento solo a fini matrimoniali. Francesco disse che avrebbe potuto esaminare la situazione, ma per farlo avrebbe dovuto conoscere meglio Alla. Dopo 4 o 5 scambi di telefonate fu inteso che si sarebbero visti alle 3 di sabato nel giardino pubblico, sul lato destro delle mura del Cremlino. Arrivò il sabato. Alla stava ad aspettarlo su una panchina e dava da mangiare ai passeri da un cartoccio di pane. Parlarono a lungo, ma nessuno dei due capì assolutamente nulla. Cenarono al ristorante georgiano, parlando molto, ma sempre senza capirsi. Alla parlava sottovoce. Di quando in quando affiorava qualche parola, la parola Italia, la parola Samaliota, aereo, che Francesco conosceva, la parola mariage e anche passport. Alla fine della cena, Francesco disse Doma, per far capire alla donna che avrebbero potuto passare qualche ora nella casa di lei. Ma la donna scosse il capo e lo guardò con malizia, facendo un cenno, come dire, birbante. Allora disse la parola Sovietskaya, e qui la donna scosse il capo con terrore. Usciti dal ristorante, Alla non volle essere accompagnata a casa. Guardò a lungo la Mercedes, lodandola con parole incomprensibili, ma si fece lasciare a un imbocco di metropolitana. Durante la settimana ci fu un fitto scambio di telefonate. Ora non era più Francesco che chiamava, ma Alla, attraverso l'amica che parlava inglese. Il tema ricorrente era sempre il matrimonio, il passaporto, l'Italia. Francesco disse chiaramente che voleva fare una visita alla casa di Alla e dopo molte telefonate fu stabilito per il sabato successivo. Ebbe l'indirizzo, la spiegazione esatta e dettagliata. Si trattava di una zona periferica, in direzione dell'aeroporto, molto dopo lo stadio Dinamo. Alle 5 di sabato, con 2 bottiglie di vodka, 3 scatole di collant, fiori e frutta, Francesco arrivò a quella che avrebbe dovuto essere la casa di Alla, un lungo edificio grigio, basso e piuttosto vecchio. Dietro l'entrata color cemento che sapeva di disinfettante, trovò una vecchia infagottata seduta su una specie di branda che gli indicò la porta di Alla. Francesco suonò e subito la porta si aprì. Alla era vestita soltanto di una vestaglia di nylon trasparente, con delle ciabattine nuovissime, rosa, con un ciuffetto di struzzo, tutta roba straniera. Era molto truccata e rotonda, lo guardò in modo serio e obliquo, ma come recitando una parte. Francesco porse i doni, che Alla guardò subito con curiosità, e come valutandoli, mutando sguardo da quello obliquo a quello diretto della curiosità contadina. L'appartamento di Alla consisteva di una sola piccola stanza con una finestra che dava nel grande viale polveroso che portava all'aeroporto. La stanza era divisa a sua volta da 2 tende, una in un senso, una in un altro, così da formare minuscoli locali. Quello dove lo condusse Alla conteneva un divano letto, un tavolino di fronte al divano, uno scaffale con dei libri e delle fotografie colorate a mano, dentro una grande cornice di carta a vari colori e arricciata. A quel punto, guardando le fotografie, si avvide di ciò che gli aveva dato fin dal momento in cui era entrato una specie di vertigine, di forte mal di mare. Era il pavimento, un pavimento strano che pendeva da un lato, ma la pendenza era così forte che tutti i mobili erano stati fissati alle pareti o al pavimento con spaghi e chiodi per non scivolare verso un solo lato della stanza. Alla si accorse di quello che lui provava e rise con quella sua risata di zingara e lo fece sedere a forza bruscamente sul divano letto. Anche lei sedette. Francesco tentò alcuni approcci violentemente respinti tra risate e spintoni e subito cominciarono le conversazioni telefoniche con l'amica che parlava inglese. Si svolgevano così. Alla parlava a lungo, Francesco rispondeva a lungo, tentando nel contempo sempre inutili approcci. Alla telefonava all'amica, passava il telefono a Francesco, Francesco spiegava all'amica quanto aveva detto prima. Passarono così 1 ora, 2 ore, 7 ore. Mangiarono degli antipasti e bevettero vodka. Alla aprì una piccola parte della vestaglia, del resto trasparente. Francesco si tolse la giacca. Sudavano. Alla si infilò due o tre volte dietro una tenda, dove c'era un acquaio e un fornello e uno sgabuzzo di legno che doveva essere il gabinetto. Dall'altra tenda sorse a un certo punto un respiro, poi un gemito. Francesco sollevò la tenda e guardò. Su un lettuccio dormiva una ragazza sui 12-13 anni, dal volto lungo, cereo, madido di sudore. Alla fece capire che era molto malata, ma chiuse con forza la tenda. Si discusse ancora a lungo, al telefono, tutte le modalità per un matrimonio in Russia, la richiesta di passaporto, i tempi di attesa burocratica tra la richiesta e il passaporto ottenuto e altre modalità burocratiche di cui Francesco non capì nulla. Anche la voce dell'amica che parlava inglese si era fatta via via più burocratica e meticolosa e tutti quegli sforzi stancarono molto Francesco. Lui non aveva nessuna voglia di sposarsi. Per cortesia non lo disse. E così le due donne, quella vera e rotonda e quell'altra chissà dove, arricchivano sempre di più la documentazione. Francesco aveva ottenuto due baci, ma era un po' ubriaco, più per la pendenza del pavimento che per la vodka. La ragazza di là dalla tenda si lamentava nel suo pallore. Fu appurato che era la figlia. Ci fu un andirivieni nel gabinetto. Alla era completamente ubriaca. Di là dalla finestra si vide scendere qualche fiocco di neve, in maggio. Erano le 2 di notte. Francesco volle tornare in albergo e disse 2 o 3 volte Sovietskaya con un cenno come di dormire, ma Alla non lo lasciava andare ed egli dovette quasi lottare per raggiungere la porta. Lo fece barcollando e scivolò a terra dalla parte della pendenza. Alla tentò ancora di trattenerlo con parole russe che dovevano essere molto dolci dal suono e quando lui fu sulla porta, abbracciandolo, si lasciò scivolare la vestaglia e rimase nuda. Francesco le fece una carezza sulla guancia e niente altro. Alla cominciò a piangere disperatamente, barcollando e scivolando verso terra con un sospiro, sempre quello, dentro cui a Francesco parve di udire la parola passport. Francesco tentava di aprire la porta e Alla disse da terra: no, mariage tomorrow, disse Francesco. E si curvò a farle una carezza che parve consolare Alla. Poi finalmente uscì. Nell'oscurità vide brillare gli occhi della vecchia distesa sulla branda sotto un cumulo di stracci di giornali e quel brillare d'occhi gli fece pensare che anche lei, anche la vecchia, era in qualche modo al corrente del progetto di matrimonio e in qualche modo se ne sentiva partecipe, cointeressata. Tanto grande è la speranza. Mistero. Un giorno infuocato d'estate a Roma, nel tremolio dell'aria calda che scioglieva l'asfalto delle strade e incollava a terra le suole delle scarpe, un uomo imbambolato incontrò un amico seminudo in un'automobile che gli faceva dei segni. L'auto si fermò accanto a lui, in mezzo alla strada, come per investirlo. E l'amico, che si chiamava Piero, gli propose di andare al mare, a Ostia. Non aveva nulla da fare e il grande caldo, quasi uscisse dalla bocca di un forno, gli dava quel tipo di sopportazione mediterranea, come una cottura del cervello, che non permette nessuna, anche minima, decisione. Piero forse intuì questa immobilità fatale tra i palazzi umbertini roventi. Aprì la portiera di lato e lo tirò dentro la macchina. Alla prima corsa l'aria, anche se calda, parve svegliare l'amico dallo stato meridionale in cui si trovava nella strada, tanto che cominciò a parlare. «Dove andiamo?» domandò. «Ti porto in un bellissimo posto che si chiama Il Buco», disse Piero. «E perché Il Buco?» «Perché si tratta di una zona di spiaggia chiusa da una rete metallica. Nella rete metallica è stato fatto un buco e da lì si entra. Ho i panini», aggiunse Piero ridendo, «e lì vedrai i nudisti». L'amico, che si chiamava Dino, conosceva poco Roma e le sue spiagge e non aveva mai visto i nudisti. Era ingenuo e disse: «E bisogna spogliarsi nudi? Se vuoi, ma se non vuoi puoi farne a meno. Ti darò il mio costume se ti vergogni». Non dissero molto durante il viaggio. L'auto attraversò l'Eur. Poi si inoltrò in una stradina di campagna che Piero disse costeggiava Castel Porziano, la tenuta del Presidente della Repubblica. Lino intuiva un immenso parco con cinghiali e daini, come gli avevano detto. Insieme alle immagini di questa intuizione, immediatamente sentì che l'aria mutava, da calda a fresca, soffiata fuori dal grande parco, dolcemente come da un condizionatore. Tuttavia era in uno stato d'animo, che spesso gli capitava nella campagna romana, di pugnalate e di sangue in mezzo alle mosche. Giunsero a una strada parallela al bosco. Piero aveva un braccialetto d'oro grosso e pieno di bagliori che Dino vide scrollare e sentì tintinnare mentre Piero manovrava per infilare la macchina ai bordi sabbiosi della strada. Poi scesero con i loro sacchetti. Trovarono subito il buco nella rete metallica e penetrarono in una zona di dune dove uno strettissimo sentiero si apriva serpeggiando in mezzo a una vasta e fitta vegetazione mediterranea. Ridendo in modo mefistofelico, con delle strida e dei brevi urli gutturali e soffocati, Piero lo guidò dentro quella stessa vegetazione che sembrava bassa e impraticabile, ma non era. Cavità arboree si aprivano nelle depressioni del terreno, formando grandi e piccole grotte, corridoi dal tetto intricato di liane e di vegetazione, con il pavimento di sabbia finissima, disseminato di fazzolettini di carta appallottolati. Vi stagnava un forte odore umido e umano, come nei bagni turchi. Si udivano anche sospiri e bisbigli, un frusciare di fronde, e Dino pensò fossero cinghiali o altra selvaggina che andava e veniva attraverso quei meandri, dal parco del presidente direttamente al mare. Se non che intravide due corpi snelli e neri, con minuscoli slip colorati, fuggire tra le frasche con quel lieve ma largo tonfo che fanno le piante dei piedi nella sabbia. C'era però qualche uccello, perché si sentiva fischiare, e a Dino parve di vedere un fagiano attraversare un tratto di sabbia illuminato da una fascia di sole e infrattarsi a zampate velocissime di corridore con il petto in fuori, il minuscolo capo eretto. Piero, con le sue risate mefistofeliche e brevi, emesse sulla soglia di quel labirinto, così simili ai richiami di un volatile esotico, e ora nella penombra umida e quasi fumigante, con i suoi denti di un biancore di volpe che fuoriuscivano dalle labbra raggrinzite sulle gote come dalle fauci di quell'animale, mise Dino in uno stato di inquietudine che si tradusse nel timore che il terreno fosse coperto di schegge di vetro nascoste dalla sabbia e il luogo fosse popolato di esseri pericolosi e deformi, forse malati di mente, portati là a fare il bagno e a prendere il sole in quella spiaggia abbandonata da tutti. Percorsero ancora un sentiero serpeggiante tra bassi e fitti cespugli e si trovarono in faccia a una duna di sabbia molto alta, come un'onda. Salirono e di là Dino vide una larga spiaggia e il mare. A Dino parve di avere conferma immediata dei suoi sospetti, perché i primi bagnanti che vide accoccolati sulla spiaggia, coperti di tuniche arabe o stracci avvolti intorno alla vita, oppure minuscoli slip con catene dorate, gli parvero appunto, per i loro occhi obliqui, ma lampeggianti sotto le pelli nere, malati di mente o carcerati o deformi di una certa età. Vide per lo più uomini, alcuni con lunghe barbe bianche o nere, chi magro e tutto pelle e ossa, chi grassissimo e avvolto dentro una specie di mutandoni di plastica rosa fiorellini, chiusi con un elastico al petto o alle ginocchia e immersi in pozze di sudore. Vide altri, giovani e neri, con capelli biondi malamente ossigenati, lunghi oltre le spalle, che si sarebbero dette ragazze. Ma un'ombra bluastra di barba intorno al volto quadrato di braccianti del sud mostrava che non lo erano. Poi vide famiglie intere sotto due ombrelloni, tutti grassi, proprio nel momento in cui mescolavano della pasta al sugo dentro un'immensa terrina di plastica verde. Anche queste gli parvero famiglie di carcerati o di malati di mente e di ossa a cui era stato dato il permesso di prendere il sole. Infine entrarono in una capannuccia di canne dove si cambiarono. Piero restò nudo e diede il suo costume a Dino e bevvero bibite servite da un uomo dai capelli bruciati da una tintura violacea, le gambe cortissime e potenti, cosparse da un labirinto di nodi di vene che parevano sul punto di scoppiare. Si incamminarono sulla spiaggia e subito Dino si buttò in mare per gettare acqua fresca su quelle immagini e tornò fuori subito perché le onde alte gli impedivano di nuotare con piacere. Fu proprio in quel momento che il luogo parve improvvisamente cambiare, come per un effetto che in cinema viene chiamato dissolvenza. Da un tremolio improvviso e sfocato, Dino vide camminare davanti a sé. Gli parve, nel silenzio assoluto salvo il rumore del mare, alcuni gruppi di persone nude, e altri gruppi si accorse che stavano distesi lungo quel corridoio di sabbia bagnato dal mare. I nudi che aveva sotto gli occhi non tutti erano belli e armonici. Alcuni mostravano tra le gambe, gli uomini, come un mignolo puntato di lato, altri una grossa vena straripante, bluastra e lucida, altri ancora un semplice bottone di carne che occhieggiava dai peli del pube. Le donne non mostravano nulla, salvo i seni e i peli del pube, ma di esse Dino fu colpito dai diversi tipi di carne, che doveva costituire in ogni caso il 90% del loro peso, quasi non avessero ossa. Una ragazza dai lunghi capelli rame, uscita in quel momento dal mare, aveva una carne che a Dino parve bellissima, leggera ed elastica, color latte e come gonfiata da una pompa di bicicletta. Così apparivano i seni e le natiche sostenuti nell'aria dal gas propano dei palloncini delle fiere. Tutta quella nudità apparve a Dino scherzosa e leggera, simile a oggetti di gioco e di cibo, palloni, bottoni, manine e braccetti di bambini, trippa e campane di vitello esposti dal macellaio. Al contrario dei bagnanti che aveva visto prima, così minacciosi gli pareva, con un passato di delitti e di sangue, di droga e di deformità ereditarie, quelle nudità totali gli parvero più educate e leggere, come di corpi non pericolosi, a cui l'aggressività animale e minacciosa rappresentata dal sesso coperto fosse stata sfilata via dal corpo come il costume da bagno. Che strano, pensò. Pochi minuti fa tutto mi pareva misterioso e tremendo. Ora tutto mi pare chiaro e innocuo. Sono bastati pochi metri di spiaggia. Lo disse a Piero, che rise nel suo modo di lince, ma la sua risata, anche quella, non gli fece più nessun effetto, e il mistero, che durava dalle fiamme del sole del mattino, fu spazzato via dalla brezza marina. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.